pompa, pompa. Adesso ho aperto il televisore. Come va, c'è a casa Marco? Ciao Antonè, aspetta che mamma mi sta disturbando. Cosa vuoi da me? Vai, vai. Ciao Antonè, ti dicevo. Mi sono qua. No, che stavo riposando in camera, siamo usciti stamattina, abbiamo fatto la spesa, collo, scendo e tutto, ero quella soppinta, mamma mi ha importunato, mi ha diciamo, interrotto la pennichella, adesso mi tocca stendere la roba che sto stendendo, ho sentito un bip, eri tu. Fatti. Quindi stai stendendo la roba, quindi stai facendo la lavatrice, tutto fai. Capito? Sì, io vai, mi stai scocciando, Con chi ce l'hai? Con te ce l'ho. No, con chi ce l'hai? Ah, Antonio Pomponi, Ciao Pompo! È inteso, Ciao, come va? Tutto a posto? Ah, bello, bella, la mamma grande, come si chiama in CB? No, in CB qui è la mamma. Pomponi. No, ma come si chiama? Agricellona. Non sa capello niente. La mamma è qui che è lavorata. Mi fa andare fumo in cervello anche a me, capito? Che mi stava dicendo? No, digli come si chiama la mamma. E lei intendeva come mi chiamavo io al baracchino, ho detto ma la mamma non c'è più, ho detto cosa dice? No, la mamma intesa io, digli il mio nome del baracchino, insomma, ce l'ho capito per intuito, non l'ha proprio detto. Ah, ecco, adesso capito. Il mio comunque si chiamava lì, e si chiama tuttora. Liu sì, voleva dire quello alla fine, però in modo tutto suo, eccetera. Aspetta che giornata, stamattina a Piazza dei Cigni in camicia, avevo un caldo con la giacca, da seduto, da fermami, era, mi pare che almeno 16 gradi all'ombra, se non di più. Mi hanno detto anche che ieri c'era gente al mare, a Platamona, pieno di gente, pieno di pescatori in riva. Beh, sarà una bella giornata, già lo credo, e vai al mare, capito? Quando c'è 19 gradi, cosa del genere, che si sta bene, poi io mi avrei cucinato anche le fettine, le bistecche in spiaggia, avrei portato poi uno di quegli affari a batterie elettrici per scaldare la piattaforma e avrei mangiato un panini al limite, avrei mangiato in spiaggia, avrei mangiato tranquillo. Sempre sono arrivato le vespe, secondo cosa mangi, se ti porti il salame oppure carne, stai tranquillo che arrivano le vespe. Sì, guarda, quelle sono una maledizione. Mi pare che c'era, anni fa andavamo anche dove c'è il fiume Silis, dove sbocca il Silis nel mare, no? Era finito il divieto di balneazione, perché per un periodo c'era anche il divieto, proprio alla bocca del fiume. E mi pare si chiami Ottavo Pettine, no? È molto lontano. Tu non potevi togliere niente da mangiare, né dolce né salato, che venivi assediato dalle vespe, Antonio. Era una cosa allucinante. Non potevi mangiare nulla, perché ti si poggiavano sulla mano, sulla roba da mangiare, e se le scacciavi ti pungevano pure. Ci avevano già l'addome in avanti col pungiglione. Io una volta ne so qualcosa, perché sono andato a cacciarne una con un gesto anche fulmineo. Quella era già, e diciamo, non è che mi abbia punto, ma già una mezza puntura l'ho sentita. Erano in posizione di attacco, erano molto, come sentono che c'era babona, sono già aggressive, pronte già alla battaglia, per carità. Già lo so, da me, è quello che non vado al mare io, perché con la carta che ho, capito, io me la porto appresso, me la porto, grazie a Dio, non sto usando vasellina, però sto usando una specie di propellente, capito? C'è butano insieme a una crema bianca che non è che sia grassa, ma meno male, questa vasellina è bugito. Sì, caro, dimmi tutto. Buonasera, buonasera, mi stai parlando? Sto parlando con Marco Condor. E tu dove sei? Al lavoro o ai tiri? A casa sono, bianca. Va bene, Daniele, va bene, a voi. Di lusso, di lusso. Avanti Marco, lo senti a Daniele, sì. Sì, sì, lo copio bene. Lui magari non mi copierà bene perché ho 4 watt. Daniele, mi copi? Ehi, Marco. Allora, a questo smitter 8, praticamente 8, prendila per buona perché non è molto preciso, là. Va bene. Perché col 3.900 sei arrivato anche 8.5, mi ricordo, sì, 8.5 abbondante anche. 8.5, aspetta, da così, da così, che cosa? Per danneggio Santiago, però ripeto, questo non è affidabile, non è affidabile, Daniele, dovrei cambiare radio. Sì, più basso, sì, dico come sei più basso. Quasi 9 sei adesso, quasi segnale 9, 8.5, con picchia 9. Tutti sei 9.5. Ho capito, no, benissimo. Attento Daniele, rifai la prova che ho cambiato radio. Santiago 8, Santiago 8, prova a cambiare. Santiago 7, modulato 7.5, quindi da 7 a 8. Capito, se moduli è migliore anche. Guarda adesso così Marco, cosa dice? 8.5. Cava, cava. Da punta allora, dai, già c'è la differenza. Sì, però quando moduli, 8.5 senza modulare, quando moduli 8.75, quasi 9, da. Tappa di rosso, metto. Guarda un po', la modulazione così più forte. Qua va bene come anche prima, va bene, da. Da va bene, da va bene. Aspetta. Guarda, allora, da 7 a 8 pieno, però un po' più nasina. Mentre io la metto. Guarda così, 1, 2, 3, 4 e 5, hola, la peppina fa il caffè. Sì, come prima, 8.5, modulato 8.75, da, quasi 9. Eia, io sto usando l'amplificato, mi copi meglio di radio rispetto a quando sei entrato? Sì Marco, si conferma. Anch'io ho lo speaker che... Vediamo, sto parlando 1, 2, 3, ecco, parlo da vicino, vedo picchi, non molti, è la verità, forse scarica la batteria, no, già ci sono, balle, va bene, Antone, riprendi tu, dai, io adesso devo stendere la roba e poi mi stendo io, perché oggi veramente ho dormito due ore, e male pure, ho fatto l'alba e sono aici, vai Antone. Io l'ho fatta l'alba, più alba no, ma quasi. A letto ho finito di modulare perché stavo modulando con un amico di Alghero, con un CB di Alghero. E abbiamo iniziato verso le 10:30, 11 d'estate, mi sono collegato alle 2:30. Immaginati tu. Ma chi era? Rocky 2? Vanni, con Vanni stavo parlando. E forse proprio lui mi pare che... No, sai perché te l'ho chiesto? Perché due giorni fa, ti avevo sentito modulare di notte, con, mi pare che si chiamasse Rocky 2, arrivava bene, e che mamma si era addormentata presto, e non volevo svegliarla, c'avevo il volume al minimo e non ho voluto nemmeno parlare per non disturbare mamma, se non sei rientrato anche a salutare. Abbiamo fatto le prove anche in PML, quindi va bene, lì dal vero, arrivavo anche io, poi vabbè si è scaricata la batteria del V5 del Plus, dopodiché ho dovuto mollare il PML e passare nuovo in 27. Avanti, Daniele. Eccomi. E quindi stavi modulando con Fabio l'altro giorno. Fino alle 2:30, figurati. E su che canale, Antonè? Su canale 14. Ah, il canale tuo. Teia. E invece ieri è entrato un altro d'Alghero, penso di ricordare che fosse Alghero però zona aeroporto, Angelino mi pare. Già è così, Marco, che sta facendo le prove, Angelo. E quindi diciamo che in zona Alghero si sta svegliando un po' l'ex popolazione della 27, da, speriamo che almeno loro tengano un po' viva la frequenza. Comunque, Antonio, quel Rocky 2 arrivava bene, mi pare che arrivasse tipo 8, però la modulazione era bella chiara. Invece ieri c'avevo un QRM, che non ti dico, un QRM elettrico propagazione, tant'è che questo Angelo non riusciva a copiarlo, arrivava 8:30, ma c'era un macello tale che non passava di radio. Sono giorni che c'è un sacco di QRM, giorni no, capito? Di sera mi adesso se vai su canale 20 c'è propagazione polacca. L'altro giorno ho parlato con un ragazzo della Polonia, e mi ha dato 6 euro per 10. Poi la sera alle 6:30 ho cominciato questa propagazione della Sicilia, e c'era Daniele, se stava mangiando le mace, stava mangiando. Ah, quindi in italiano. Quando è dall'Italia mi interessa di più. Almeno parli italiano e capito, puoi scambiare non solo segnale, capito, ma puoi parlare anche di cose comuni. Cosa ti volevo dire? Porca miseria, io ieri stavo provando un altro apparato, la Linco. Però no, non è l'apparato difettoso. Allora, poi questo QRM, questo abulotto che c'avevo, era come elettrico a impulsi, faceva poi come per magia, tipo alle 8:20 di sera, mi scompare il QRM, si è abbassata la propagazione ma anche il QRM, ed è tornato normale. Ma non sarà qualcosa di elettrico, di strano, qualche pompa di calore, cosa ne so? Sì, magari qualche ripetitore 5G che c'è vicino, ti hanno messo subito i ripetitori di vicino, già lo sai. Quindi, me lo sono anch'io, io ce ne ho due di ripetitori qua di fronte. C'è il 4 e il 5G hanno piazzato, poi mi hanno piazzato un altro dalla parte di Claudio, di lì, in quei grattacieli, di fronte dove abitava lui. E poi c'è quello l'altro di Carbonazzi, quello dove c'è la piazzetta, tutti i ripetitori sono qua. Va bene, allora io mi stendo questa roba, Daniele riprendi, bianco per me. Ma com'è Daniele, c'è un ha di ripetito via, cioè, a mettere sopra qualche palazzina, così parla tutto del palazzo e quanto c'è. Forse Daniele sta regolando qualcosa, da. Io, va bene, uno a 30 metri, no, misurati sono 40 metri, 40 o 49, una volta avevo preso il metro laser, fino a 50 metri di misura, mi pare sostanzialmente la distanza è 49,9, a filo dei 50, dai. Io dico 30 metri, ma in realtà sono di più. E ogni tanto, insomma, rispetto a una volta, Antonè, gli anni 80 erano un bijou, adesso si sentono col baracchino, anche il più silenzioso, senti rumori, rumorini, rumoracci, rumori elettronici strani, capito? Lo so già, di tutto mi piace sempre quando ci sono questi telefoni 5G, 4G, hanno sollevato la potenza 5G, quindi tra poco fanno il 6G, quindi sarà ancora peggio. E poi di questo 5G ne hanno fatto un bel di propaganda, facevano vedere che il chirurgo dall'altra parte del mondo ti operava con un robot comandato attraverso il 5G, no? Senza latenza, tempo reale, bla bla bla. Macchine che vanno da sole, sì, qualche Tesla c'è, però non so se sia comandata da remoto, quello che è. Poi ogni tanto le Tesla, capito, girano e ti portano nel burrone, se lasci la guida automatica ogni tanto sbarellano e o vanno contro mano, girano verso i burroni. Abbiamo visto il filmato di una Tesla che è andata a finire contro un palo. 9, mille mi fatta è, da lì è 9, 9 pieno. 9 pieno, l'avevo passato, aspetta. Ok, così va andare bene. Perfetto, perfetto. Guarda, la faccia di grande, era. Quindi ottimo, ottimo segnale. Posso sapere quanti sono? Dammi due cifre, una è lo zero finale, più o meno, eh. 30. Oh, solo 30, però è ottimo, vabbè, buono, buono. E invece quando eri basso, il più basso segnale, quando eri 7, quanti erano? 4? Prima sto usando quello con 600 watt, stavo usando. No, ma dico, quando eri più basso possibile, quanti erano? Prima stavano stati ah vabbè, comunque dai, è ottimo, qua problema non ce n'è. Antonello, riprendi, bianco per me, faccio sta roba, dai, parlate voi. Vabbè, vabbè, vabbè, il tempo di lo sai che esce molto bene gli apparati CB con lineare, è tutta un'altra cosa, un'altra storia, questo quando qui col primo quando c'è propagazione sembra che sto usando un telefono al posto di usare il baracchino. Quando sono terminato M9 venivo da chiamare, col cazzo che mi sentono anche con il PDCTE, invece con questo, con 30, 40 watt, 50 watt, boh, faccio il break e mi rispondono subito. Daniel. Lo so, quanto già c'è la differenza, dai. Cambia la musica. Quando c'è propagazione, è una cosa, guarda, assurda. L'altro giorno quando c'era con la propagazione sui 45, se sono andato per sbaglio la venta. C'era la Sicilia, io mi dovevo sapere se faccio il break. Ho fatto il break e mi ha risposto subito. Sa che avevo 9 la prima volta, poi gli avevo detto che avevo chiesto il segnale, chi mi sentiva a 7, chi sei. E no, intanto arrivavo. Tu in macchina, cosa hai fatto? Tu niente in macchina. Grazie. Però era una bella propagazione, quella giornata fortunata. Ehi, sono salito al 45, l'ho sentito ancora, ma non faceva. Io sono Calimero, piccolo e nero. Ho avuto 10 watt qui alla radio, non di più, quindi volevo andare. Poi ce n'era uno stamattina che stava arrivando non solo a Roma perché stava parlando italiano, però italiano per morire stava parlando, ma già capiva. Ma non mi sentiva. Già lo so. Aspetta che mi sta chiamando Simona, 2 minuti. Sì, Antonio. Adesso mi, Daniele, in primavera, adesso che inizia la primavera inizia la propagazione, quella buona per l'Italia, quella a medio raggio, ci si può divertire, dai. Eh sì, speriamo, dai. quest'anno una cosa dovrei riuscire a fare, lavoro per me stesso, vediamo cosa ne c'è poi, già da adesso, vabbè, l'altro giorno a 45 questa vince d'Antonello che me l'ha detto, stava arrivando forte, stava arrivando. Sì, guarda, ieri arrivavano tutto l'inglese in FM, quello che è, e sul 45 anche ieri c'erano tipo camionisti, la modulazione, la parlata era quella, i baracchini erano quelli, e quindi hanno approfittato della propagazione per fare delle chiamate. Sì, infatti, bisogna provare, poi magari dobbiamo E poi loro sono kilowattari, quindi magari se non è la potenza adeguata non passiamo. E qua ti volevo dire, ma la domenica i camion possono viaggiare, almeno i mezzi molto pesanti, perché non lo so, ma io mi pareva di ricordare di no. Perché da poco che ho sentito che c'era, da poco, poi settimane fa, che c'era il blocco dei camion, diciamo, potevamo cercare che era domenica, quindi è un fine settimana, ma ancora è presto per mettere le restrizioni. Ma può darsi pure che stessero modulando la fermimi, cioè che ne so, magari sono accorti la propagazione, hanno acceso il camion e fatto una bella modulata, mi come se era da una stazione base, tanto che con le potenze che hanno mi. Quelli sono chilomattari, sono, porca miseria, si fanno sentire. Sì, molti modificano anche l'impianto elettrico del mezzo, ci hanno più alternatori in modo da alimentare correttamente i lineari, eccetera, e tutto. Caspita, è un investimento anche notevole. Mi ricordo che si vedeva su YouTube, mi pare, un camionista che aveva un lineare, non so se fosse autocostruito, ma era una bestia, cioè era un tavolino questo lineare, aveva, mi pare, non so se 4 kW, però bisogna vedere come li hanno misurati, se è PEP oppure reali, capito? Perché picco sono, in AM sono un imbroglio. Lo so. E niente, però vabbè, non possiamo andare a 24, che sono quelli grandi che c'hanno. Ecco, non parlo. Ma stiamo uscendo adesso, dopo che fa? Sì, adesso io sto utilizzando esattamente 4 watt dell'omologato, del 3009 omologato. Perfetto, va bene, vado bene, finalmente adesso riesco a sentire anche le basse modulazioni, insomma, se non c'è QRM sotto già sento bene anche le basse modulazioni. Sì, oggi è vivibile, qua mi segna 5 di QRM, da QRM, propagazione, quello che è, no? Ma ieri era una cosa, ero anche, stavo pensando anche male del baracchino, che non sia partito qualche filtro o qualcosa, e potrei metterlo oggi di nuovo e verificare che funzioni correttamente, perché mi sembrava un po' strano ieri. Poi sai cos'è? Da noi hanno cambiato anche i pali della luce, hanno messo dei nuovi, noi pali, già capito, no? Le luci cittadine lì, hanno messo dei fari a LED, non vorrei che quelli quando iniziano a accendersi facciano un rumore elettrico, capito? Dovresti provare, più tardi Marco, provare e vedi un po' se ti dà di nuovo quel problema. No, qua la strada va vero, ma oggi c'ho QRM A3. Era ora che insomma, che scendesse. Ma se vado alla 15 non ne parliamo, lì vabbè, è un casino nero, c'è. Sì, qua è 5, circa 5 per ora. Però infatti quasi quasi adesso sbrigo queste cose che stavo facendo e attacco subito l'altro apparato per capire se è un problema dell'apparato oppure se era solo comunque propagazione scenera di brutto, gente che si ammassava, c'era gente in bande laterali, FM, di tutto c'era, di tutto e di più. Addirittura adesso la banda inglese arrivavano in FM oltre il 9, chiari chiari, sembravano in locale, e che non capisce una parola perché hanno la parlata svelta quando parlano tra di loro, no? Quello è il brutto, per quello. Poi ho visto che loro, per dire, non usano le nostre frequenze. Che se per dire noi sono 0,75, loro sono 0,73 o 74 o 77. Allora, se parliamo della banda inglese vera e propria, quella che loro avevano dall'81, parte da 27601 forse, o 600, comunque c'hanno l'1 fino a 1.25 finale, fino ad arrivare a 27991.25, che è il canale 40. Solo in FM con la banda è per loro. Poi hanno adottato anche le bande nostre, comunque hanno adottato anche la 27 normale, no? Dopo 40 anni, pensa, possono modulare quindi sui 40 canali normali AM, FM, SB eccetera. Prima erano molto più limitati, senza contare che i polacchi c'hanno lo zero finale, hanno i canali normali, cioè come i nostri, però con lo zero finale, capito? Quindi per esempio quando senti quel ponte a 27200, quel parrot, quello è il canale 20 polacco, 27200 in FM sempre, i polacchi usano l'FM principalmente. Mi Falcone Nasu, buonasera, ora a te un controllo se questa radio sta ancora funzionando, che mi serve in 10 metri. Eia, ciao Claudio, ben entrato dopo tanto. Allora, il segnale, fammelo vedere senza modulare. Io il segnale non ne ho antenna di 10 metri, sto usando la verticale multibanda. Non mi interessa la modulazione, com'è, buona? Sì, sì, buona, magari non limpidissima come quella di Daniele, però è buona. Il segnale comunque è 9-10, è abbondante, quindi già arrivi bene comunque. Non vuol dire non è buona come quella di Daniele, questo è il padre di quello di Daniele. Cosa c'è? Vediamo, sono andato per appena, 1, 2, 3, prova, così te lo porta. No, vabbè, la timbrica, magari il tono di voce, Claudio, dipende dall'impostazione dell'apparato. Diciamo, quella di Daniele è un po' più cristallina, ecco. Vabbè, quella di Daniele è un 140, questo non è un 140. Questa è un'altra gubba. Va bene, vediamo un po' se mi sente Daniele. Daniele, mi senti? Sì, Claudio, veramente ti riesco a tirarti fuori anche dalle tue coordinate per arrivare. Qua sembra leggermente un po' alta come radio, poi non lo so, c'è un'impressione, vabbè, che sei di Santiago 6, però la radio sembra, non è chiara, non è classica, ecco, qua. Vabbè, è da arrivare, non lo so, se il microfono è anni, questa che non la uso, dovrei abbassare un pochino, vediamo così. Guarda, vedere così, Daniele, se va meglio. Sembra un pelino meglio qua, sembra un pelino meglio, però sembri, se parlavi in FM per darti un'idea. Allora il microfono, sai che cambio microfono, che questo è il 60 vecchio, dovrei averne uno nuovo dentro la scatola, riprendi io Marco. Eia, fai pure, io sto usando un amplificato per baracchino, vediamo se parlo distante, così i picchi li vedo, cioè il braccio, tutto il braccio ho allontanato, vedo che va lo stesso, là. D'altronde è a manetta. Va bene, così facciamo la prova comparativa con l'altro mic. Posso dire che a te sei battuti allora? Sì, anzi oggi Claudio arriva meglio, è 9.10, e solitamente arrivava 9, non so con quale antenna, io non mi ricordo se abbia conservato, ma a quanto pare no, se sta usando la multibanda, la G-Pol forse non l'ha più messa, poi glielo chiediamo. Allora, questo è l'altro microfono, l'altro MC60, non so se va meglio di quello là. No, a me sembra che siamo lì, come timbrica siamo lì, forse, sai cos'è, non eravamo abituati più al tuo tipo di modulazione, Claudio. La linea, sai cos'è, c'è una voce più giovane, più squillante, tu ce l'hai più mascola, te capì? Te capì. Ma che Daniele c'ha 40 anni, io ne ho 65, quindi la modulazione sta iniziando a calare. Va bene. Cosa stavo dicendo? Quindi così non va bene, così è forse troppo bassa. Quindi una via di mezzo dovrebbe essere questa, non lo so. Questa è nuova 60, è dentro la scatola, l'ho tolta adesso. Eia, comunque, Claudio, non farti problemi, cioè la tua timbrica solita, bene o male, era così, quindi semplicemente magari non eravamo abituati al tono di voce, e poi come hai detto tu, magari con l'età un po' la voce cambia, anche la mia si sta tenendo a diventare un po' rauca. E prima magari non fumava, adesso qualche sigaretta elettronica già ci passa, e quindi ho visto che influisce sul tono di voce. Vediamo se è rientrato quel pomponio di pomponio. E adesso vado lì, come si chiama, di fronte a lei, gli faccio dare un cannone da quel negozio l'altro giorno. E io, nella piazzetta, tu figurati, nella piazzetta dove c'è Cicci, da lì sentivo l'odore del coso, del cannone, cazzo, ci ho detto, ma vaffanculo, ho detto, cazzo, che cazzo è che sta fumando erba? Era quel negro che c'era un cannone in mano, sarà stato almeno 20 centimetri, e diametro di 2, vedo pieno era. Ciao, che l'abbia sentito. Certo, buonasera, ben ascoltato. Gappa, va bene. Ok, io mi sto ascoltando Immuni, sì, è quella la modulazione, Marco, dai, non è che ci siano molti così da fare. Più o meno è quella lì. Forse non eravate abituati più a sentirmi, ma comunque già va bene. Ti ho sentito comunque, abbiamo staccato solo il microfono. Allora, J-Paul è conservata, perché in pratica è 4 anni che non faccio più 27, quindi non mi serviva solo per la 27. A posto di quello ho montato una pick-up W5 banda, e quindi fa anche gli 11 metri, 10 metri, 11 metri, non ha i 160, ma a me i 160 non mi interessa. 15, 20, 40, 80 e 10, però con la corretta inserita, ma potrei anche non inserirlo. Lavora anche molto bene le 11 metri, sì, 6 S9, Daniele, S9, Marco, solito segnale, 9 più 10 qua, abbondanti, Antonello è 9, 25, quasi 9, 30, ma ce l'ho più a portata di mano. Però i segnali sono ottimi, a me interessava sapere se la radio stava funzionando, perché la sto mettendo in 10 metri, solo in 10 metri, così è separata dalle altre e non ci sono problemi. Molto bene, a te Marco, di nuovo fai girare. Ehi, a Claudio, io te lo dico sempre quando ti sento, questa è casa tua, entra quando vuoi, poi guarda, c'è la rotta di Alghero che a quanto pare si sta riformando, quindi magari esce qualcosa di carino, là, riusciamo a salvare la 27. Io vabbè, voglia, non ne ho tanta, quindi non è che stia tutti i giorni, però sarebbe bello anche che rimanesse su, che non diventasse una banda abbandonata, ecco. La cosa ti volevo chiedere, come si è polarizzato tu in orizzontale con quell'antenna? No, Marco, una verticale. verticale 5 bande. Ah, verticale 5 bande, ma com'è? Trappolata? C'è uno stilo unico, un radiatore unico trappolato oppure tipo quelle con gli stili paralleli? No, una bobina unica e quattro radiali abbastanza grossi da, non so, 80 centimetri l'uno. Ah, vabbè, ho capito, no, perché ce ne sono tante tipologie di verticali, c'era la famosa CP6, quella che non puoi vedere tu, che c'è una trappola per ogni banda, però quella è veramente sacrificata. E poi c'è la classica cosa verticale, multibanda, se avrai un balun sotto, presumo, non lo so, radiali giustamente, uno per ogni banda, e già va bene, dai, comunque in verticale è meglio perché noi siamo in verticale, se fossi in orizzontale magari arriveresti più basso, ecco. Ti volevo chiedere, ma la famosa J-Pol l'avevi tenuta per la 27 o l'avevi data? La J-Pol io ne avevo due, una l'avevo fatta avere a Carlo, e l'altra me la sono tenuta io, ed è conservata, capite, un'ottima antenna. Inizialmente la usavo per i 10 metri, poi per non montare direttive e balle varie ho deciso di fare questo lavoro qua, capito, nonostante abbia anche dipoli, una banda per i 40, per gli 80, già ce n'è antenne, ma non ne ho problemi, sono a terra, quindi ho un ettaro di terreno, non ci sono problemi. Tutto qua, ok, va bene. L'importante è la radio stia funzionando, perché mi interessava quello lì, ok. Il cambio allora riprendi tu, poi fai girare la motopompa, ciao Antone, un abbraccio grande, ti ho visto l'altro giorno, ma la foto non mi sono potuto fermare, stavo aspettando il treno. Vai Daniele, riprendi che metto a posto questa scatola. Bravo Daniele, non mi accende più. E quello di FM è per pagazione, cioè, non sono con chi è. Daniele. Quindi stai usando il 140, il 40 stai usando, non il 140. Ha detto Daniele che sta usando il 40, non il 140. Io sì, c'ho il 140, sto usando quello, è Daniele che sta usando il 440. Il 440? Lo sto usando dei biglietti, il 440, non so, ho preso il 440, io sono rimasto al 140. Daniele, quando l'hai preso il 440, ti ha detto Claudio? Se ti si blocca il bucio, voglio vedere che cazzo.